corolle e la bocca bella di corallo, vivo un sospiro agli angeli per regalarlo agli uomini. Metto i ritornelli in un cestello e cantando scendo la città. Signori belli, c'è qui la musica, c'è un ritornello che tutti cantano, è una canzone d'amore che fa paci papà ci va e finisce con un papà. E gli organini e le fisarmoniche lungo le strade se la ripetono, questa canzone che a tutti dà paci papà ci va e che batte di cuore fa. Ah, ma com'è dolce questa musica, ah, beato chi l'ascolterà. Tu che stampi baci di rossetto sul ritratto d'un bel giovanotto, bimba al balcone affacciati, guarda le rose sbocciano, mentre aprile biondo giovinetto abbraccetto a me cantando va. Fanciulle belle, c'è qui la musica, c'è un ritornello che tutti cantano, è una canzone d'amor che fa facilità e finisce con un mamma. E gli organini e le fisarmoniche lungo le strade se la ripetono, questa canzone che a tutti dà baci va, baci va e che batteri cuori fa. Ah, intanto passa questa musica, ah, ma la poesia resterà. Tra vent'anni porterai a spasso la caricatura di te stesso e ti verrà un brivido nel velo di una lacrima quando un giorno nel passarti appresso ti conoscerò e ti spietterò. Te la ricordi, tutti cantavano questa canzone d'amor che fa baci fa baci va, ti ricordi vent'anni fa. Ah, in ogni vita c'è una musica, ah, beato chi la canterà.